Mi ricordo quando ti ho incontrata a quella festa. Eri lì affacciata alla finestra con lo sguardo fisso sul tuo cellulare. Avrei voluto tanto venirti a parlare, però poi ho pensato che forse eri un po' giù. E di te, mia cara, io non mi sarei scordato più. Anche quando ti ho cercato e tu hai finto interesse per me, che subisco un'illusione, ho sperato che il mio cuore si allietasse dandoti un'altra occasione. Mi è rimasto il tuo sorriso in testa e il tuo sguardo, la mente mi devasta. Non so se è peggio lo sforzo per dimenticarti o la voglia disperata di rivederti. E mi ritorni in mente in ogni attimo della mia vita, e sei tu che sei parte di me. Partito tutto da uno scherzo, ma come sempre sono arrivato terzo. Sei la ragazza più bella che abbia mai visto. Dalle tue amiche sono il tipo malvisto. Capisco, ma l'amore ti rende schiavo, ti prende il tuo cuore un ladro. Sei la mia forza, nel frattempo la mia disperazione. Sarei in grado di amarti, ma devi darmi un'occasione. Dicono che è tutto scritto nel destino. Ho sperato che la nostra amicizia durasse fino all'infinito. Mi sono messo in ridicolo davanti a te. Ho giocato l'ultima carta, tu regina di cuori, io re. E mi ritorni in mente in ogni attimo della mia vita, e sei tu che sei parte di me. Spezzato in due mentre soffro, ci sei tu che ridi di me. Il cuore spezzato non si ricuce. Prendi la strada ma non vedi perché vai contro luce. La speranza è l'ultima illusione. Chi di speranza vive, disperato muore. Siamo condannati quando passa il treno dell'amore. Del resto rifletto e arrivo al dunque. Amore mio, io ti amerò comunque. Se nessuno è perfetto, il mio nome è chiunque. E mi ritorni in mente in ogni